Si scrive Frodi Carosello, si legge Il grande trucco per evadere l'IVA. Il meccanismo è complicato. In pratica, grazie a diversi passaggi di mano fra aziende per lo più riconducibili agli stessi proprietari, si compra a credito di IVA dallo Stato e si fanno poi scomparire le aziende che la devono versare. Nel 2011, grazie a questo trucchetto, l'IVA evasa è stata di 2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,7 emersi nel 2010, tanto che si pone il solito interrogativo: sarà diminuita l'evasione o saremo stati meno bravi a individuare le truffe? Di certo c'è che le frodi carosello sono un meccanismo di evasione vecchio come il mondo, ma ancora molto in voga e che oltre ai conti dell'erario colpisce duro anche la concorrenza. Alla fine, infatti, i beni arrivano alla grande distribuzione a prezzi stracciati. Frodi fatte spesso sulla pelle di disperati. Infatti, per metterle in atto serve un prestanome, qualcuno disposto ad accettare per un pugno di noccioline di mettersi in guai seri. È accaduto, ad esempio, recentemente che un'azienda lombarda del settore della plastica, nata dal nulla, in pochi mesi sia arrivata a fatturare 30 milioni di euro. Chiaro che qualcosa non tornava. Infatti, quando sono scattati i controlli della finanza, hanno trovato un nullatenente a capo di tutto. Gli avevano dato un paio di mensilità e un bigino in mano che avrebbe dovuto spiegargli come cavarsela. I veri truffatori, neanche a dirlo, nel frattempo sono spariti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.